La Fondazione del Monte inaugura un nuovo ciclo espositivo, questa volta dedicato all'artista Pinuccia Bernardoni, e io sono qui per parlarne con la curatrice Cecilia Canziani. Buongiorno Cecilia e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Io Cecilia partirei dal titolo di questa mostra, appunto come dicevo prima, Una felice corsa. Che cosa rappresenta appunto questa scelta? Il titolo in realtà nasce da una suggestione dell'artista. Stavamo cercando, sai, come una delle cose più complicate è scegliere un titolo, certo, per una mostra, e stavamo nel pieno della discussione tra verbi, materiali, opere, e a un certo punto, rileggendo un testo di un catalogo di Pinuccia, abbiamo trovato questo titolo bellissimo che abbiamo rubato ad Ada Chiara Zevi. Era il titolo che aveva dato Zevi ad un testo, e le abbiamo chiesto il permesso, ci è stato accordato e quindi l'abbiamo utilizzato. In realtà per me aveva molto senso rispetto all'idea che fosse una mostra che guardava un arco cronologico molto ampio del lavoro dell'artista, ma non esattamente una retrospettiva, un'antologica, proprio una sorta di corsa attraverso i decenni e gli anni del suo lavoro, scegliendo dei temi che ritornavano. E poi l'altra suggestione è che effettivamente io ho trovato un'atmosfera di grande gioia nel lavoro di Pinuccia, un'attitudine felice, piena nel guardare il visibile, nel rappresentarlo. Mi piaceva che ci fosse questa nota così positiva nel titolo. E lo hai detto anche tu, la mostra attraversa la lunghissima carriera, la lunghissima produzione di Pinuccia Bernardoni, quindi ti volevo chiedere come hai deciso di curare lo spazio espositivo avendo anche tutto questo materiale tra le tue mani. Dunque, abbiamo iniziato guardando effettivamente tutto, abbiamo cercato di ampliare al massimo il nostro arco cronologico, e quindi abbiamo lavorato con le opere sin dai suoi esordi. Poi diciamo, abbiamo trovato come punto di partenza effettivamente l'anno 83, perché è l'anno delle sue mostre, della prima mostra allo studio G7, una mostra che per Pinuccia è stata veramente importante, e tra l'altro anche un anno in cui iniziano le prime acquisizioni in collezione. Noi abbiamo diverse opere che vengono da collezioni private, e un anno in cui si precisa l'uso di un materiale che poi per lei rimarrà centrale fino ad adesso, e che è la carta. Quindi l'83 è stato un pochino l'anno il punto d'inizio, e da lì in poi siamo andate a cercare delle corrispondenze con opere che arrivano fino ad oggi, perché appunto ci siamo fermate con lavori del 2021-22, l'ultimo disegno del Tavolo dei Silenzi, che è un'opera volutamente in progress, tavolo dove sono, diciamo, si sono depositati dei disegni ai quali l'artista ha lavorato principalmente nel 2020, e che però idealmente prosegue fino ad oggi. Ecco, l'ultimo disegno è proprio di un mesetto fa, mentre stavamo lavorando. Tra l'altro, ad accompagnare questa mostra ci sarà anche una pubblicazione che è stata pensata come una biografia visiva. Ti va di raccontarci anche questo particolare? Sì, volevamo invitare con Cristina Francucci, a cui devo questo felicissimo invito a lavorare con Pinuccia Bernardoni e con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Volevamo che la pubblicazione accompagnasse la mostra, volevamo che non fosse un resoconto a posteriori, ma uno strumento molto agile, molto snello, quasi un pieghevole, ma un po' più di un pieghevole, da portarsi a zonzo per le sale della mostra e poi portare a casa, per in qualche modo raccontare quello che non si vede mai, no? Dentro le mostre della vita di un artista, cioè lo studio. E in questo caso il focus di tutta l'operazione è stato proprio un'indagine nello studio. Quindi tu dicevi prima come avete fatto. Bene, abbiamo guardato i lavori, abbiamo aperto scatoloni, abbiamo rovistato nei soppalchi, abbiamo guardato nel deposito delle opere di Pinuccia, e così la mostra è stata composta. Quindi questa stessa atmosfera di un tutto pieno, che è la vita dello studio, un luogo che è generativo, un luogo che è fondamentale per la vita quotidiana di un artista, era qualcosa sul quale volevamo continuare a riflettere, che volevamo in qualche modo offrire anche attraverso qualche immagine a chi visita la mostra, di cercare una sorta di cortocircuito, di relazione tra mostra e poi pubblicazione. Era un'istanza che mi ha suggerito Cristina Francucci e mi è piaciuto subito moltissimo come idea. Quindi c'è un piccolo testo, molte immagini, alcuni di lavori in mostra, alcuni di lavori che non sono in mostra ma idealmente avrebbero potuto esserci, alcune immagini dello studio. Accompagna alla mostra anche un'altra piccola pubblicazione che è stata proprio disegnata da Cristina Francucci con Pinuccia Bernardoni e con il supporto di Filippo Nostri, che è stato il designer che ha insomma dato la veste grafica a tutta la mostra, ed è un piccolo libro pensato per il pubblico dei più piccoli che visita la mostra, quindi una micro pubblicazione di cose da fare che ripetono i gesti che l'artista imprime sulla carta, sul ferro, quindi segni, disegni, punti, punzonature e piegature, che immaginiamo orchestrati dalle manine dei bambini e delle bambine che vengono a visitare la mostra magari con i loro genitori. Tra l'altro la mostra è aperta al pubblico gratuitamente, mi piace sempre ricordarla questa cosa, e c'è ancora tanto tempo per andarla a vedere perché sarà fino a fine febbraio aperta appunto al pubblico. Esattamente, poi durante le giornate di Exit abbiamo delle aperture speciali il sabato fino dalle 10 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 19 e poi per il resto della settimana la mostra è aperta dal martedì al sabato. Perfetto Cecilia, io ti ringrazio veramente per averci raccontato appunto la mostra Una felice corsa Pinuccia Bernardoni, e complimenti per tutto e grazie. Grazie a te.